ti ha beccato. Amore, amore, quanto sei lontano. Continuo con Sanolo tutta la sera. Continuo con Sanolo sta con Sari. Ma la te ti ti levi alla mattina. Ma la te ti ti levi alla mattina. Oh mano, mano, toro, carne, ma picca. Oh mano, mano, toro, carne, ma picca. Bruno.